Allora, 10:55, torniamo in diretta dagli 87-900, siamo collegati telefonicamente con un lavoratore delle ditte di pulizia della Sapienza di Roma. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa mattina un nuovo appuntamento assembleare da parte dei lavoratori e delle lavoratrici e degli studenti che stanno seguendo questo percorso. Intanto la notizia più importante è quella che è confermato, almeno così sembra, insomma, lo sciopero che è stato lanciato qualche giorno fa, previsto per il 18 e 19 gennaio. Quindi ecco, questa ci sembra innanzitutto la prima questione, insomma, da rilanciare a tutti voi che siete all'ascolto, vero? Quindi lo sciopero sembra confermato, no? Sì, sì, è confermato, anche perché comunque è uno sciopero che viene oltre che da un percorso, insomma, che è nato dal basso, orizzontalmente dagli operai, è stato tra l'altro posto in assemblea sindacale, è votato da più di 100 operai e operaie in assemblea sindacale CGIL, quindi comunque c'è, diciamo, anche sotto quel punto di vista c'è appunto il nero sul bianco, no? Anche se non serviva, poi è stata una formalità portare comunque all'assemblea della CGIL che si è svolta a dicembre la mozione di sciopero, anche perché comunque la direzione sindacale non pareva intenzionata a avere momenti di rottura con l'azienda, quindi comunque ci è sembrato necessario proporre anche all'assemblea sindacale e farla votare questa mozione. È stata votata da più di 100 operai, i voti contro mi sembra che non sono stati 5 o 6, e quindi per il 18 e 19 chiaramente adesso, anche alla luce del fatto che ieri appunto i delegati sindacali e la direzione CGIL ha incontrato l'azienda e l'incontro ha avuto un nulla di fatto poi in pratica, e quindi adesso chiaramente non so che cosa, come si vorrà porre. Sembra che la CGIL voglia prendere la medesima strada che hanno poi preso gli altri sindacati confederici delle UIL, quindi di prendere ulteriormente tempo. Qui sono passati 4 mesi e questa politica del prendere tempo ha ulteriormente peggiorato le condizioni di lavoro e di minaccia nei confronti degli operai. Quindi per noi è confermato comunque il 18 e 19 giorni di sciopero che verranno poi articolati questa mattina, verranno discusse nell'assemblea, nell'appuntamento che stiamo tenendo proprio in diretta adesso sul territorio, ci sposteremo in assemblea fra un po' e verranno discusse come articolare queste due giornate di sciopero, perché comunque saranno due giornate in cui noi vorremmo mantenere la presenza all'interno della città universitaria, appunto per comunicare con chi la vive poi questa città universitaria, tra gli utenti e anche gli altri lavoratori di altre parti, perché noi abbiamo sempre detto che oltre chiaramente al discorso della vertenza c'è anche il discorso che noi stiamo portando avanti per una lotta per le internalizzazioni, e questo chiaramente riguarda tutti i lavoratori che sono appaltati, sono decine di ditte dentro l'Università della Sapienza che sono appaltate a privati. Qui se non risolviamo il problema poi alla radice, no? Che è il problema quindi dell'appalto, quindi delle gare a ribasso che poi vengono fatte pagare appunto sulla pelle dei lavoratori, e chiaramente forse troveremo una soluzione per le vertenze, ma poi il problema si riproporrà ogni 5 anni, insomma, e quindi va anche posto all'evidenza questo discorso alle internalizzazioni. Beh, certamente, insomma, è il punto dirimente se si riesce effettivamente a incidere, insomma, attraverso la lotta proprio sul piano generale e quindi sulle modalità con cui vengono conclusi gli accordi per gli appalti. In questo caso, come praticamente nella maggioranza dei casi, l'appalto, quindi il cambio di ditta, si è effettuato al massimo ribasso, come con conseguenze facilmente prevedibili, come anche tu sottolineavi. La cosa però che, insomma, ci interessa anche capire è proprio un po' l'atteggiamento che ha avuto la CGIL. Tu giustamente ricordavi il fatto che gli altri sindacati confederali hanno mostrato subito, insomma, il loro volto filo padronale, potremmo dire così, no? La CGIL come spesso accade, insomma, con un piede cerca di essere interna alla lotta, con l'altro però cerca anche di cavalcarla, in un certo senso forse, diciamo noi, anche prevenire la possibilità che ci sia uno sciopero auto-organizzato indetto dai lavoratori. Il passaggio di ieri serviva forse anche a questo? Il passaggio di ieri è stato poi, tra l'altro, un passaggio, diciamo, anche scorretto nei confronti della delegazione, perché in realtà, questo ha detto a parte l'azienda, l'incontro che i sindacati confederali dovevano avere con l'azienda era per il 20 gennaio. L'incontro del 10 doveva essere, appunto, l'appuntamento era fissato con una delegazione dei lavoratori e lavoratrici e di studenti che stavano al sit-in e che hanno fatto le mobilitazioni. Dopodiché i sindacati confederali, visto che, diciamo, hanno provato, chiaramente, come ti stavi dicendo tu, a montare la situazione e quindi a prendere loro l'appuntamento dentro la direzione, questo è stato anche fatto presente ai delegati, che il gesto scorretto. E poi però si arriva sempre al dunque poi alla fine, perché poi in queste situazioni che si sono venute a creare mobilitazioni ci stanno lavoratori che non sono tesserati con nessuno e i lavoratori che hanno le tessere di tutti i sindacati, quindi è una cosa orizzontale. La mossa della CGIL è stata, appunto, provare a mediare, cioè provare a riproporre la strada concertativa, e che però chiaramente ieri ha ritrovato di nuovo, diciamo, il muro di gomma dell'azienda, che e quindi chiaramente adesso ancora io dovremmo capire come si approccerà la CGIL a questa edizione del 18 e 19, tra l'altro è stata votata all'assemblea CGIL da più di 100 persone, quindi comunque non hanno scusanti per sottrarsi o cosa. Se si vogliono sottrarre, lo sciopero va comunque avanti, perché ormai i sindacati confederali non hanno più alcuna peso politico, cioè hanno peso politico per l'azienda, che chiaramente trova dei canali preferenziali per trovare delle soluzioni becere, ma poi in realtà non hanno peso politico perché stanno perdendo gli iscritti e la gente sta cominciando a rifiutare anche appunto la rappresentanza dei sindacati ufficiali. Perfetto, perfetto, questo è quello che ci tenevamo anche a capire. Tu anche prima, no, dicevi dal punto di vista dell'articolazione di questa lotta l'intento è quello di ricomporre diversi settori, ci sono, no, quelli della portineria, le manutenzioni, la pulizia, eccetera, però poi è chiaro che poi ci sono le questioni specifiche anche delle singole vertenze che chiaramente, insomma, come ben ci facevi capire, non incidono poi a monte sul problema. Fatto sta però che voi ultimamente vi siete ritrovati, e questo chiaramente è parte della singola vertenza delle pulizie, con a fare i conti con questa questione delle buste paga ridotte, e questo chiaramente sì, è un problema che di questi tempi immaginiamo si sia fatto sentire, abbiamo fatto anche montare un po' la rabbia, no? Quindi mancanza di straordinari, addirittura ore lavorate che non sono state pagate, ma com'è possibile? Sì, no, ma qui siamo alla situazione, scusa se ti interrompo, ma siamo alla situazione di illegalità totale, perché questa ditta riconferma il loro modus operandi di pagare. Noi veniamo pagati a parametro per legge, chi è part time e chi è full time, e loro invece si ostinano a dire che di volerci pagare a ore, quindi diciamo come se fossimo soci lavoratori. In più, diciamo, c'è stata questa anche questione dell'orario spezzato, quindi ai full time è stato imposto un orario spezzato, quindi faccio un esempio: chi lavorava dalle 6 di mattina all'1 è stato spezzato dalle 6 di mattina alle 9 e mezza e dalle 14 alle 17:30. Questo chiaramente ha portato dei cambiamenti, ha influenzato fortemente anche la vita personale dell'operaio, che chi aveva un secondo lavoro, chi insomma aveva impegni personali, insomma porta uno stress anche psicologico, che è atto appunto a far rifiutare, a far diciamo a rinunciare ai stessi operai a parte delle ore. Quindi diciamo il tentativo è quello di scoraggiare le persone a venire a lavorare, quindi chi lavorava full time gli dicono palesemente di rinunciare a alcune ore lavorate, quindi magari da passare da 7 ore al giorno lavorate a 4 o a 5 per tornare, quindi c'è anche il ricatto proprio psicologico. In più c'è stata anche la questione dei vari ricatti, perché poi questo è il modus operandi, ripeto, dell'Eros e Promos, di ricattare le persone, quindi dicendo mi fai mi fai 10 giorni di malattia al mese, io ti riaccorpo l'orario. Questo significa 10 giorni di malattia al mese, significa che vieni pagato dall'INPS e loro risparmiano dei soldi che comunque prendono dall'università, perché l'università poi ti paga a persona. E quindi tu lavorando, diciamo, mettendoti in malattia per 10 giorni, avresti pagato dall'INPS, no? Allora i soldi comunque li intascherebbero comunque dall'università, quindi ci stanno anche questa forma di ricatto e di illegalità. E poi c'è anche la questione, ripeto, come insomma avevo già detto anche altre volte, delle divise. Adesso grazie poi fortunatamente alle persone che siamo riusciti a fare tramite questi interni, sono state erogate delle divise agli uomini, quindi pantaloni, insomma tutti gli apparati, anche i dispositivi di sicurezza. Alle donne continua a essere fornito un grembiule estivo per l'inverno, che è una cosa indecente. Questa poi rispecchia la politica dell'azienda, che ha sempre avuto un particolare riguardo per le donne in maniera negativa, non dandogli le scarpe, dandogli il grembiule, dicendo che le donne comunque sarebbero state escluse dal riaccorpamento dell'orario. Quindi c'è anche una forma di discriminazione forte rispetto alle donne. Certo, questo è quanto. Un ultimo aspetto intendevamo affrontare, a dicembre insomma c'era stato anche questo episodio nel corso di una vostra iniziativa in cui il rettore Frati, un po' sotto pressione, era stato costretto a promettere un incontro che poi insomma non c'è mai stato. Però dobbiamo ricordare il fatto che l'Università La Sapienza, con il suo rettore, continua a avere, insomma, non solo chiaramente fortissime responsabilità in quanto stazione appaltante, ma è previsto il fatto che comunque ci sia un monitoraggio, soprattutto nei primi mesi, per valutare l'andamento di questi appalti. Quindi continua comunque l'Università a rappresentare per voi un interlocutore, cioè certamente una controparte, ma delle pressioni nei confronti dell'università continuate a farle, no? Sì, assolutamente, anche perché comunque l'università è quella che poi teoricamente dovrebbe andare a controllare le condizioni dell'appalto, anche le condizioni chiaramente igieniche dell'università. Questo non viene fatto perché c'è stato chiaramente un accordo tra l'Euros e Promos e l'università, appunto, perché l'Euros e Promos, prendendo questo appalto al 16% di meno, ha fatto risparmiare i soldi all'università. I controlli sono pilotati, i controlli addirittura viene detto a persone dell'ufficio tecnico, insomma gli uffici tecnici di IGE adesso dall'altra parte se vedono lo sporco. Quindi diciamo c'è anche una forma di sporco tollerato, perché l'università della Sapienza sa benissimo quali sono le condizioni di lavoro, insomma, che ci sono, e quale tipo di truffa sta facendo l'Euros e Promos. È chiaro che ci è stato promesso questo incontro, abbiamo parlato con i dirigenti dell'ufficio tecnico, che tra l'altro sono inquisiti dalla magistratura per altri appalti, quindi per soldi che sono spariti, per appalti gonfiati. Quindi siamo andati a parlare veramente con delle persone che già sapevamo in partenza, che sono conniventi, sguazza su questa situazione. Quindi per noi rimane comunque un interlocutore, anche rispetto al fatto, ripeto, come dicevo prima, dell'internalizzazione, perché comunque oltre a migliorare le condizioni di lavoro degli operai, l'università almeno sul nostro appalto risparmierebbe 10 milioni di euro. Quindi non mi sembra una cifra insomma di poco conto, visto che poi dall'altro sono stati pure tagliati i soldi all'università, insomma tutti i problemi che sappiamo, sono state aumentate le tasse ai studenti, e questo è poi uno dei problemi che stiamo portando pure appunto con gli studenti che ci hanno sostenuto fino ad oggi, insomma i collettivi studentischi che ci hanno sostenuto. Perfetto, una lotta davvero importante, perché insomma va a incidere all'interno di una situazione i cui intrecci, che venivano poc'anzi messi in evidenza, per anni hanno funzionato in un certo modo, e se si riuscisse a far scoperchiare tutta questa situazione, a porre insomma le contraddizioni in tutta la loro evidenza, e sostenendo il percorso di auto-organizzazione organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, sicuramente insomma i vantaggi afferirebbero non soltanto per le loro condizioni lavorative, anche insomma per chi vive generalmente l'università. Di questo gli studenti ne sono perfettamente coscienti, non a caso stanno dando una mano, stanno dando il loro contributo per la riuscita di questo percorso. Dunque 18 e 19 gennaio sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del settore delle pulizie della Sapienza di Roma. Grazie Daniele, buona assemblea. Ok, grazie per lo spazio, un saluto. Ciao. Ciao.